5. I cavalli di menta. Oi! Esclamò rabbiosamente il signor Banks, battendo l'ombrello contro le gambe dell'elefante che stava davanti alla porta d'uscita. Che c'è, George? Domandò la signora Banks dal fondo della scala di cucina. Qualcuno ha preso i miei bastoni da passeggio! Strepitò il signor Banks come una belva ferita. Sono qui, signore, disse Mary Poppins mentre veniva fuori dalla camera dei bambini. In una mano ella teneva una canna di ebano con manico d'argento. Nell'altra oscillava una canna grigio cenere con un distintissimo manico ricurvo. Senza dire altro e con un'aria di grande superiorità, porse le canne al signor Banks. «Oh!» disse egli punto sul vivo. «Perché le avete prese? Ne avete forse bisogno, Mary Poppins? Spero che non abbiate una gamba zoppa!» «No, grazie tante, signore», ella rispose acida. Si poteva arguire dal tono altezzoso della sua voce che il signor Banks l'aveva offesa. Una gamba zoppa, come se le sue gambe, come ogni membro della sua persona, non fossero in perfette condizioni. Siamo stati noi, dissero insieme Jane e Michael, guardando il padre di dietro le spalle di Mary Poppins. Voi? E perché di grazia con le vostre gambette grasse? Sono storpi o zoppe? Che cos'hanno? Ma no, rispose con aria annoiata Michael. Avevamo bisogno delle canne per i cavalli. Ma come? La mia canna di ebano, ereditata dal prozio Erberto, è quella che ho vinto al bazar della parrocchia. Il signor Banks non poteva credere alle proprie orecchie. Non avevamo proprio di meglio su cui cavalcare, mormorò imbronciata Jane. E perché non avete preso il cavallo a dondolo, il vecchio Dobbin? Intervenne dalla cucina la signora Banks. Detesto il vecchio Dobbin perché cigola, fu la risposta di Michael pestando i piedi. E poi Dobbin non può andare dappertutto. Noi vogliamo dei cavalli veri, protestò Jane. E io dovrò procurarveli, naturalmente. Infuriato, il signor Banks misurava a lunghi passi l'anticamera. 3 pasti al giorno non bastano. Vestiti caldi e scarpe sono bazzecole, dunque. Adesso volete anche dei cavalli? Ah, cavalli! E non vorreste anche per caso un cammello? Michael guardava suo padre con un'espressione di commiserazione. Pensava che veramente il suo modo di comportarsi era poco dignitoso, ma ad alta voce si limitò a dire con molta sennatezza: No, grazie, vogliamo soltanto dei cavalli. Ebbene, li avrete quando la luna sarà diventata azzurra. Ecco che cosa vi posso dire, l'interruppe il signor Banks. E quando può capitare questo fenomeno? Si informò Jane. E il signor Banks la guardò irato. Che bambini stupidi mi ritrovo ad avere, pensò. Non capiscono nemmeno il linguaggio figurato. Oh, ogni 100 anni o pressappoco, se siete fortunati una volta in tutta la vita, disse offeso. E deponendo la canna nera nella gamba d'elefante, appese la canna grigia al braccio e se ne andò in città. Mary Poppins sorrise guardandolo uscire. Uno strano e segreto sorriso. E i bimbi si domandarono cosa mai significasse. La signora Banks arrivò dalla cucina strepitando. Povera me, Mary Poppins, che cosa ne pensate? Il cane della signorina Lark, Willoughby, è entrato in casa e ha mangiato una gomma della carrozzella. Sì, signora, disse Mary Poppins con calma, come se nulla di tutto quanto Willoughby poteva fare avesse il potere di meravigliarla. Ma che cosa dobbiamo fare per le compere? La signora Banks quasi quasi piangeva. Ah, non potrei dirvelo, no, signora. Mary Poppins scosse la testa come se cani e carrozzelle non la riguardassero affatto. Dobbiamo andare a fare compere, brontolò Jane. Sono stufo di andare attorno, brontolò Michael con malumore. Sono sicuro che mi fa male alla salute. La signora Banks non gli badò e suggerì nervosamente: Potete lasciare Annabella a casa oggi e prendere Robertson Hay per portarvi i pacchi? Dorme nella carriola, informò Jane, che l'aveva visto dalla finestra subito dopo colazione fare la sua siesta mattutina. Ebbene, non ci rimarrà molto a lungo, disse Mary Poppins e se ne andò maestosamente in giardino. Aveva detto il vero. Robertson Hay non si riposò a lungo. Qualcosa di veramente terribile la doveva avergli detto, perché quando i bimbi l'ebbero raggiunta in giardino, trovarono Robertson Hay che li aspettava davanti alla porta. Su, andiamo e sbrigatevi per piacere, questa non è una parata di tartarughe. Mary Poppins prese i gemelli per mano e li fece camminare in fretta vicino a lei. Un giorno dietro l'altro, ed è sempre la stessa cosa, non ho mai un momento di pace. Robertson e soffocò uno sbadiglio mentre dava a Jane il proprio cappello da portare e inciampava. Nella via alta, Mary Poppins camminava guardando ora qui ora là nelle vetrine per ammirare la propria immagine. La sua prima tappa fu dal signor Tremlett, mercante di ferraglie, chincaglierie e utensili da giardino. Una trappola per topi, domandò altezzosamente dalla soglia del negozio consultando la lista di commissioni della signora Banks. Il signor Tremlett era un uomo ossuto, con una grande faccia paonazza. Sedeva dietro al banco con il cappello in testa, il giornale del mattino era puntellato attorno a lui come un vecchio paravento cinese. Soltanto una? Egli domandò brusco, spiando dalla cima del paravento per guardare Mary Poppins. Molto spiacente, signorina, soggiunse con un'occhiata di traverso, ma per una non ne vale la pena. Scosse la testa e stava per rigirarsi quando colse lo sguardo di Mary Poppins. Le sue gote scarlatte divennero viola. Ah, ho detto per scherzo, si affrettò a dire. Non ho voluto offendervi. Se lo desiderate, vi posso vendere anche soltanto una mezza trappola, senza contare che vi sarà persino un pezzetto di formaggio dentro. Una macchina tritacarne, proseguì Mary Poppins fissandolo ostinatamente. E vi metterò un mezzo chilo di carne sul prezzo, disse spiritosamente il signor Tremlett. Mary Poppins non ci badò. Una mezza dozzina di batuffoli per pulire le casseruole, una scatola di cera d'api, una scopa per pavimenti, lesse in tutta fretta. Debbo mandare tutto a casa? Chiese il signor Tremlett sorridendo nervosamente mentre legava i vari pacchi. Un pacco di chiodi e un rastrello da giardino, continuò lei, guardando la faccia paonazza come attraverso un vetro. Non volete della segatura? Egli si informò. Tutta quella che mi hanno consumata ai bimbi giocando? Mary Poppins si voltò. Jane e Michael e i gemelli erano seduti comodamente su di un grosso saccone bigio e col loro peso avevano fatto rovesciare una lunga striscia di segatura sul pavimento. I suoi occhi sfavillarono. Se non vi alzate immediatamente. Ella cominciò e la sua voce era così terribile che i bambini balzarono in piedi senza neppure attendere la fine della frase. Robertson Hay, che si era addormentato su di un aratro, balzò su anche lui e cominciò a radunare i pacchi. Volevamo soltanto riposare, cominciò Michael. Ancora una parola e vi troverete a riposare a letto, vi avverto, ella gli disse furiosa. Oh, non importa, non fa niente, dichiarò il signor Tremlett mentre si precipitava a scopare la segatura. Perché siete voi? Egli aggiunse con spirito, cercando di essere cordiale. Mary Poppins lo paralizzò con uno sguardo. Avete della pittura sul naso, gli annunciò con calma e uscì dal negozio. Percorse la via alta con la velocità di un razzo, mentre i bambini la seguivano, con Robertson Hay rotolandole dietro come la coda di una cometa. Dal panettiere ella comprò una pagnotta di pane, due scatole di tortine e qualche biscotto allo zenzero. Non badate a me, sospirò Robertson Hay mentre ella ne faceva una pila e gliela metteva sotto il braccio. Mi pare che no, rispose lei allegramente, affrettandosi dall'erbivendolo per comprare piselli, fagioli e ciliegie. L'ultima pagliuzza rompe la schiena del cammello, fu il commento di Robertson Hay, vedendosi consegnare il pacco con la verdura e la frutta. Così si dice, ella annuì con un sorriso gelido e riprese a consultare la nota delle commissioni. L'ultima tappa fu dal cartolaio dove comprò una bottiglietta d'inchiostro e poi dal farmacista per un pacco di impiastri alla mostarda. Adesso erano arrivati in fondo alla via alta, ma Mary Poppins ancora non si fermava. I bambini si scambiarono uno sguardo e sospirarono. Non vi erano più negozi, dove poteva ancora andare? Povero me, Mary Poppins, le mie gambe si spezzeranno per la fatica, disse pateticamente Michael, facendo finta di zoppicare. Non possiamo andare a casa adesso, Mary Poppins, le mie scarpe sono logore, si lagnò Jane. E i gemelli incominciarono a piagnucolare e a gemere come una coppia di cuccioli scontrosi. Mary Poppins li guardò tutti con grande disprezzo. Siete una collezione di molluschi, ecco che cosa siete. Non avete midollo nelle ossa. E mettendo la nota delle commissioni nella borsa, sbuffò e riprese a camminare in fretta. Un mollusco nuota, osservò Michael con rabbia, e non deve andare a fare compere. Era così stanco che quasi non si curava se Mary Poppins lo udisse o meno. Un'arietta fresca veniva dal parco, carica dei profumi del mattino. L'arietta odorava di foglie di lauro e di muschio e di qualcosa d'altro che era loro familiare. Che cosa poteva essere? Jane fiutò l'aria. Michael, mormorò, sento odore di menta. Michael fiutò l'aria come un cagnolino. Egli ammise. Anch'io. A un tratto tutti e due notarono l'ombrello rosso e verde. Era lì, di fianco alle rotaie, dalla parte del parco verso la città. Accanto stava appoggiata una grande insegna. Signorina Calicò, confetteria, cavalli da Nolo. Dicevano le parole a grandi lettere nere. I bambini rimasero allibiti a guardare, perché sotto l'ombrello rosso e verde stava seduta una stranissima figurina come mai ne avevano viste. Da prima non poterono spiegarsi che cosa fosse, perché splendeva e luceva come un diamante. Poi scoprirono che era una vecchietta con una faccia gialla, rugosa, scarna e incartapecorita, e una zazzera di capelli corti, bianchissimi. Lo splendore e il luccichio venivano dal suo vestito coperto dal colletto all'orlo di spilli. Gli spilli erano appuntati tutti su di lei, come su un riccio, e tutte le volte che ella si muoveva mandavano guizzi alla luce del sole. Nella mano teneva un frustino che di tanto in tanto faceva schioccare al passaggio di qualcuno. Menta glaciale, a prezzi di liquidazione, tutti i confetti sono fatti con lo zucchero più fino. Ella gridava con una voce simile a un nitrito mentre sferzava l'aria con la frusta. Vieni a vedere, Michael, disse Jane, tutta entusiasmata e già dimentica della sua stanchezza. Egli prese la mano della sorella e si lasciò tirare verso l'ombrello aperto. All'avvicinarsi della figuretta scintillante, essi videro qualcosa che fece loro aumentare l'appetito. Davanti alla vecchietta c'era un recipiente ripieno di canne da passeggio di menta. Zucchero e spezie, tutto quel che piace ad un prezzo speciale di liquidazione, cantava la vecchietta facendo schioccare la frusta. Proprio in quel momento voltò la testa e spiò quel gruppo sbandato. I suoi occhi sfavillavano come due grani di ribes maturo ed ella sporgeva una mano simile a una zampa di uccello. Ebbene, finalmente siete proprio voi, Mary Poppins. Mercoledì farà un mese che non vi vedo. Posso dire la stessa cosa a voi, signorina Calicò, rispose cortesemente Mary Poppins. Oh, in quanto a questo è da vedersi, disse la signorina Calicò, e poi aggiunse sogghignando. Se sapeste che cosa voglio dire. Il suo sguardo nero e brillante si fermò sui bambini. Per amor del cielo, che quartetto di facce imbronciate! Abbasso il malumore, sembra che abbiate tutti quanti perso qualcosa. Hanno perso il buon umore, disse Mary Poppins con stizza. La signorina Calicò corrugò le sopracciglia e i suoi spilli cominciarono a scintillare. Santi numi, pensate a quel che vi dico, tutto ciò che si perde si ritrova. Questa è la legge. Dove avete perso il vostro buon umore? Gli occhietti neri si posavano ora su uno, ora sull'altra, e tutti si sentivano in un certo qual modo colpevoli. Credo di averlo perso sulla via alta, disse Jane con un sospiro a stento represso. E perché l'hai lasciato così lontano? E perché l'hai perduto? È permesso chiedertelo? Michael scalpitò come un puledro e diventò rosso in viso. Non volevamo andare a passeggio, egli incominciò con una certa vergogna, ma la frase non era ancora terminata che la signorina Calicò lo interruppe con uno strillo acuto come quello di una gallina. E chi vuol passeggiare? Chi? Ditemi, lo vorrei sapere. Nessuno ha desiderio di camminare. Io non lo farei nemmeno se mi pagassero, neanche per una manciata di rubini. Michael rimase interdetto. Era possibile? Aveva dunque finalmente trovato una persona adulta che la pensava come lui in fatto di passeggiate? Per mio conto, non ho passeggiato per secoli, disse la signorina Calico. E ciò non basta. Nessuno della mia famiglia ha mai passeggiato, e perché andare attorno inciampando su due miseri piedi? Ella fece schioccare il frustino e nell'agitare il braccio gli spilli sfavillarono. Seguite il mio consiglio e andate a cavallo. Le passeggiate vi fanno soltanto crescere. Poi dove vi conducono? In nessun luogo. Andate a cavallo, vi dico, cavalcate, vedete il mondo. Ma non abbiamo nulla su cui cavalcare, protestò Jane, guardandosi attorno per vedere su che cosa cavalcasse la signorina Calicò. Perché, malgrado ci fosse l'insegna cavalli da nolo, attorno non vi era la minima traccia nemmeno di un ciuco. Niente su cui cavalcare? Serpenti vivi! Questo è un triste stato di cose! La voce della signorina Calicò aveva un tono di tristezza e i suoi occhi ebbero un curioso sfavillio nel guardare Mary Poppins. A un suo breve cenno interrogativo, Mary Poppins le rispose con un altro cenno. Ebbene, potrebbe andar peggio, gridò la signorina Calicò tirando fuori una manciata di bastoni. Se non potete avere dei cavalli, che cosa sono questi? Per un po' di tempo possono esservi utili, posso lasciarveli per uno spillo al pezzo. Il profumo della menta glaciale riempiva l'aria. I quattro immusoniti annasparono affannosamente alla ricerca di qualche spillo infilzato nei loro vestiti. Impazienti, si dimenavano e si torcevano, tastavano dappertutto, ma invano, non trovavano nemmeno uno spillo. Oh, che cosa dobbiamo fare, Mary Poppins? Esclamava Jane. Fra tutti non abbiamo uno spillo. Spero bene che non ne abbiate, rispose l'interpellata con il suo sbuffo abituale. Gli abiti dei bambini affidati alle mie cure sono sempre rammendati e cuciti a dovere. E Mary Poppins sbuffò una seconda volta stizzita, ma rovesciata la propria giacca ne trasse alcuni spilli e li offerse uno per uno ai bambini. Robertson Hay, che stava sonnecchiando fra le rotaie, si svegliò di botto proprio mentre Mary Poppins porgeva uno spillo anche a lui. Appuntateli qui, gridò la signorina Calicò chinandosi verso di loro. Non fateci caso se pungono, sono troppo dura per sentirli. I ragazzi appuntarono i loro spilli fra gli altri e il vestito della vecchietta parve animarsi più che mai di riflessi mentre ella porgeva loro i bastoncini. Con risa e grida di gioia, essi afferrarono i bastoni e li fecero vibrare. Intanto l'odore della menta glaciale andava diventando sempre più intenso. Non desidero più andare a passeggio adesso, gridò Michael mentre rosicchiava la punta del suo bastoncino. Un piccolo grido ferì l'aria, come un debole diniego di protesta, ma Michael era troppo intento ad assaporare la sua menta glaciale candita perché potesse avvertirlo. Io non voglio mangiare, disse in fretta Jane, voglio tenere il mio bastone per sempre. La signorina Calicò guardò Mary Poppins e scambiò con lei una strana occhiata. Se vi garba, disse la signorina Calicò schiamazzando, potete prenderli tutti, se vi garba, e buon divertimento. Appuntate per bene gli spilli e non preoccupatevi per me. Mentre Robertson Hay le appuntava uno spillo nel grembiule, ella gli porse un bastoncino. E adesso, disse Mary Poppins con sussiego, scusateci, signorina Calicò, dobbiamo andare a casa per il pranzo. Oh, aspetta, Mary Poppins, protestò Michael. Non abbiamo comprato nessun bastone per te. Gli era venuta la terribile idea di dover dividere il suo bastoncino con lei se per caso ella non avesse più uno spillo disponibile. Sì, disse ella scuotendo il capo. Non ho paura di rompermi le gambe, come certa gente che conosco. Scusate se rido, come se Mary Poppins avesse bisogno di un bastone da passeggio. E la signorina Calicò garrì come un uccelletto, quasi Michele avesse detto qualcosa di molto esilarante. «Ebbene, molto lieta di aver fatto la vostra conoscenza», disse Mary Poppins stendendo la mano alla signorina Calicò. «Il piacere è mio, vi assicuro, signorina Poppins, e ora ricordatevi del mio consiglio, andate a cavallo. Arrivederci, arrivederci», disse la signorina Calicò gongolante, come se si fosse assolutamente dimenticata che nessuno di loro possedeva un cavallo. «Confetti alla menta, prezzi di liquidazione, tutto fatto con lo zucchero più fine», l'udirono gridare mentre se ne andavano. «Avete uno spillo?» ella chiese a un passante, un signore molto ben vestito che portava gli occhiali. Costui portava una borsa sotto il braccio, sulla quale stava scritto in lettere d'oro «Telegrammi del cancelliere». «Uno spillo?» disse il signore. «No, certamente. Dove posso prendere uno spillo adesso?» «Nulla per nulla, ecco la legge. Non potrete avere un bastoncino se non avete uno spillo. Prendine uno dei miei, sciocco, io ne ho in quantità», disse una donnona grassa che passava di lì. La donnona tirò su il canestro che portava sotto il braccio e, prendendo una manciata di spilli dal suo scialle, li offrì al cancelliere. «Uno spillo soltanto, prezzi di liquidazione. Non pagatene mai due quando ve ne chiedono uno», gridò la signorina Calicò con la sua voce da chioccia, e diede senz'altro un bastoncino al cancelliere, che se lo appese al braccio e se ne andò. «Voi, e le vostre leggi», disse la donnona grassa grassa, ridendo, mentre appuntava uno spillo nel grembiule della signorina Calicò. «Su, dammene uno forte, io non sono una fata esile e eterea». La signorina Calicò le diede un bastone lungo e grosso, e quella ne afferrò l'impugnatura e vi si appoggiò con tutto il corpo per provarne la resistenza. «Date da mangiare agli uccelli, a 2 soldi il sacco! Grazie, mia cara!» gridò gaiamente la donnona grassa grassa. «Michael!» gridò Jane con un moto di sorpresa. «Credo che quella sia la donna degli uccelli!» Ma prima che egli avesse il tempo di risponderle, accadde un fatto stranissimo. Mentre la donnona grassa grassa si appoggiava con tutto il suo peso contro il bastone, questi ondeggiò e poi, infilandosi sotto le sottane, la sollevò in aria. «Su di una margherita, me ne vado!» La donna degli uccelli afferrò l'impugnatura di menta glaciale e strinse forte il suo paniere. La canna da passeggio sorvolava il marciapiede e le rotaie. Un nitrito lunghissimo e forte ferì l'aria e i bambini rimasero allibiti. «Tenetevi ben salda!» gridò Michael con ansia. «Tieniti ben saldo tu!» rispose la donna degli uccelli, perché anche la canna del bambino stava sollevandosi. «Jane, anche il mio si solleva!» gridò Michael mentre la canna già lo portava in aria. «Attenzione, Michael!» ammonì Jane. Ma proprio in quel momento anche la canna di Jane oscillò forte e spinse indietro la bambina sulla pista di Michael. Jane lo seguì cavalcioni sul bastoncino bianco e rosa. Cavalcò sulla cima dell'albero di Lauro, sfiorò i cespugli di lillà e vide passare in gran velocità Robertson Hay con le braccia cariche di pacchi. Egli stava coricato tranquillamente sul bastoncino e anche cavalcando si prendeva la libertà di dormire. «Voglio vedere di arrivare sino alla quercia, Jane», gridò Michael mentre ella trottava. «Per piacere, stai tranquillo, non facciamo gare, Michael. Reggete bene i vostri cappelli e seguitemi». Mary Poppins, sul suo ombrello dalla testa di pappagallo, cavalcava al piccolo trotto vicino a loro. Elegante e composta, come su di una seggiola a dondolo, ella stava seduta sulle pieghe di seta nera. Teneva in mano 2 briglie legate ai bastoni rosa dei gemelli. «Tutto fatto con lo zucchero più fine!» La voce della signorina Calicò giungeva lassù attraverso le vibrazioni dell'aria mentre la terra sfuggiva ai loro sguardi. «Vende centinaia di bastoni!» gridò Michael. Infatti il cielo si era ormai popolato di una gran quantità di cavalieri. «Ecco la zia Flossie, sulle dalie!» gridava Jane indicando in basso. Sotto di loro cavalcava una signora di mezza età, il suo boa di penne fluttuava al vento e il cappellino le stava di traverso sul capo. Ed ecco qui la signorina Lark con i cani. Ed ecco, sopraggiungeva un bastoncino galoppante. Sul suo dorso sedeva la signorina Lark con quella sua aria stizzosa e con i suoi cani che le tenevano dietro. Willoughby, che pareva molto soddisfatto, sorrise con franchezza ai bambini. Andrew, invece, teneva gli occhi chiusi perché l'altitudine gli dava le vertigini. Galop, galop, facevano gli zoccoli galoppanti. Aiuto, aiuto, che finimondo, che terremoto! Gridava all'impazzata una voce rauca. I bambini si voltarono e videro il signor Trimlet che cavalcava pazzamente dietro a loro. Le sue mani spingevano forte la menta glaciale e il suo viso si era fatto bianco come un panno lavato. Volevo mangiare il mio bastoncino, gemeva, e guarda un po' che cosa mi è capitato. Prezzi di liquidazione, soltanto uno spillo, una vera baza, continuava la voce della signorina Calicò. Il cielo era diventato un vero campo di corse. Da ogni punto dell'orizzonte sbucavano sempre nuovi cavalieri. Pareva ai bimbi che tutti i loro conoscenti avessero comprato un cavallo di menta. Riconobbero in un signore dal cappello piumato che cavalcava vicino a loro uno dei due magistrati. A una certa distanza videro il lampionaio che fece loro un cenno mentre trottava su di una canna rosa splendente. Anche lo spazzacamino li sfiorò, cavalcando con le sue spazzole fuligginose. Vicino a lui, il gelatiere andava a piccolo trotto succhiandosi beatamente un gelato al lampone. Fuori dalla pista! Fate posto! Fate posto! Gridava un vocione che risuonava alto e lontano. Spuntò il gran cancelliere che galoppava focosamente come un demonio. Stava inarcato sul collo della canna, come se dovesse guadagnare il gran premio. Mentre cavalcava, i suoi occhiali erano saldamente fissati sul naso e la borsa di pelle sobbalzava di continuo. Telegrammi importantissimi! L'udirono gridare. Devo essere a palazzo in tempo per colazione. Fate largo, fate largo! Passò oltre, allontanandosi, e presto sparì all'orizzonte. Che baraonda nel parco! Nella ressa giungevano confusamente le grida dei cavalieri. Largo, fate largo! Le canne da passeggio sbuffavano come si trattasse di veri e focosi cavalli in corsa. Tenetela a sinistra! È vietato sorpassare, proibito sostare, crocicchio per pedoni, velocità moderata! Gridava il guardiano del parco, galoppando anche lui in mezzo a quella confusione. Alimenti per gli uccelli, 2 soldi al pacco! Gridava la donna degli uccelli, trottando fra la folla. Costei si muoveva sbattuta e urtata da ogni genere di pennuti, stornelli, passeri, merli. Alimento per uccelli, 2 soldi al pacco! Gridava agitando i suoi pacchetti di becchime. Il guardiano del parco sollevò la sua canna e si mise a gridare. Ebbene, mamma, che state facendo qui? Dovreste essere alla St. Paul Cathedral. Salve, Alfredo, figlio mio. Do da mangiare agli uccelli? Ti vedrò all'ora del tè. 2 soldi al pacco. Il guardiano del parco rimase sbalordito nel vederla correr via. Non l'ho mai vista far simili prodezze, nemmeno quando ero ragazzo. Attenzione, guardate dove andate! Egli gridava mentre una canna da passeggio di una rosa splendente lo sfiorava. Su di essa cavalcavano Ellen e il poliziotto che aveva il pomeriggio di libera uscita. Oh, oh! Esclamava Ellen. Non oso guardare giù, mi vengono le vertigini. Ebbene, non guardare, guarda me piuttosto, diceva il poliziotto prendendola per la vita mentre galoppavano dolcemente una accanto all'altra. Le rose e canne di menta andavano, fuggivano, scintillando nel sole mattutino. Portavano i loro cavalieri e le loro cavallerizze sugli alberi, sulle case, sulle nuvole. Giù in basso la voce della signorina Calicò diventava sempre più fievole. Menta glaciale, a prezzi di liquidazione, tutto fatto con lo zucchero più fine. Sembrava addirittura a Jane e Michael che non fosse più la voce della signorina Calicò, ma piuttosto il fievole nitrito di un cavallino pascolante in un prato lontano. I due bambini si facevano largo attraverso la folla dei cavalieri, caracollando sui loro destrieri immaginari fatti di bastoni di menta glaciale. Udivano l'eco di zoccoli scalpitanti e i loro visi erano sferzati da un venticello piacevole. Ma dove? Dove sarebbero andati a finire con quel passo? A casa per il pranzo? Oppure giù, giù negli abissi sottoterra? Sempre in testa a tutti, mostrando loro la strada, se ne andava baldanzosa Mary Poppins. Se ne stava seduta sul suo ombrello con grande disinvoltura e le mani elegantemente posate sulla testa di pappagallo. La piuma di colomba del suo cappello fluttuava al vento in un accordo perfetto col ritmo del galoppo, ma non una piega della sua gonna era fuori posto. Non si sarebbe potuto dire a che cosa ella pensasse, ma sulle sue labbra vi era un sorriso di compiacimento, come di chi è interamente soddisfatto di sé. Il viale dei ciliegi si avvicinava sempre più e si scorgeva ormai il telescopio dell'ammiraglio splendere al sole. «Io non vorrei più scendere dal mio cavallo», gridò Michael. «Io vorrei poter andare a cavallo tutto il giorno», gridò Jane. «Io vorrei essere a casa alla una. Seguitemi, per favore», disse Mary Poppins e puntò il becco del suo pappagallo verso il numero 17. I bambini sospirarono, benché sapessero che sospirando non avrebbero ottenuto nulla di più. Si afferrarono più saldamente al collo dei loro bastoni da passeggio e la seguirono nella corsa verso la terra. La distesa verdeggiante del giardino di casa, come un grande pascolo erboso, si alzò dolcemente per muovere il loro incontro. Le canne di menta glaciale corsero e si posero su di esso, impennandosi e pavoneggiandosi come cavallini da polo. Robertson Hay fu il primo ad atterrare. Il suo bastone si issò nel letto erboso e fiorito che era il prato. Robertson Hay aprì gli occhi, si guardò intorno, sbadigliò, raccolse tutti i suoi pacchi ed entrò barcollante in casa. Giù, presso i ciliegi, trottavano malincuori i ragazzini, piano piano, finché l'erba toccò i loro piedini e i bastoni si arrestarono di colpo sul prato. Nello stesso momento, l'ombrello dalla testa di pappagallo, con le sue pieghe seriche, come un paio di ali, calò giù fra i fiori. Mary Poppins saltò giù con un balzo da gran signora, poi scosse il suo ombrello, lo ripiegò e se lo mise sotto il braccio. Nel vedere la coppia rispettabile che formavano Mary Poppins e il suo ombrello, mai si sarebbe pensato che avessero attraversato il parco in quello strano modo. «Che magnifica cavalcata!» esclamò Michael. «Che fortuna che tu avessi quegli spilli, Mary Poppins!» Egli le corse incontro attraverso il prato per abbracciarla. «Ti sarò grata se mi lascerai andare!» Ella sbuffò. «Non mi offenderò più, mi sento tanto docile e buona!» disse Jane. Mary Poppins sorrise incredula. «Che miracolo sarebbe!» osservò abbassandosi per riprendere i bastoni. «Prenderò io stesso il mio, Mary Poppins!» disse Michael impugnando il manico di zucchero. Ma ella agitò i bastoni da passeggio sulla testa e a grandi passi maestosi entrò in casa. «Vorrei mangiarlo, Mary Poppins!» egli protestò. «Non avevo nemmeno assaggiato il manico!» Mary Poppins non fece caso a quelle parole. Senza fiatare, imperturbabile, si diresse al primo piano con le canne da passeggio sotto il braccio. «Ma sono nostre!» incalzò Michael girandosi verso Jane. «La signorina Calico ci aveva detto di tenerle!» «No, non è vero», rispose Jane, disapprovando con il capo. «Ella disse soltanto di tenerle se ciò era possibile». «Ma certo, è naturale che possiamo tenerle», disse Michael con arroganza. «Ce le terremo per cavalcare, sempre!» Infatti, la vista delle canne da passeggio che stavano ritte in un angolo della stanza dei bambini presso il letto di Mary Poppins era molto rassicurante. I ragazzi pensavano che mai nessuno avrebbe osato rubare quei quattro bastoncini di zucchero a strisce rose e bianche che a loro apparivano ormai familiari come i mobili della loro casa. E si erano lì, appesi, tutti e quattro insieme, con le loro impugnature legate come quattro amici fedeli. Stavano perfettamente immobili, uguali a comuni bastoni, e si aspettavano tranquilli in un angolo polveroso di andare a passeggio con i loro padroncini. Passato il pomeriggio, arrivò l'ora di mettersi a letto. La camera era tutta profumata alla menta glaciale. Michael fiutò l'aria e si precipitò dentro uscendo dal bagno. «Stanno benissimo», mormorò a Jane che entrava. «Ma credo sia meglio star svegli questa notte per vedere che non capiti nulla di strano». Jane assentì. Aveva visto che i bastoni facevano cose assai strane e capiva che le apprensioni di Michael erano giustificate. Così, anche molto tempo dopo che Mary Poppins se n'era andata, essi rimasero con gli occhi aperti per vigilare il cantuccio dei bastoni. Ma le quattro ombre fosche stavano immobili, tranquille e silenziose davanti ai loro lettucci, soffici e bianchi. «Dove andremo domani?» domandò Michael. «Credo che andrò a cavallo a trovare la zia Flossie, per vedere un po' che cosa ne pensa». Il bambino sbadigliò e chiuse un occhio. Poteva vedere benissimo con uno solo, pensava. Così l'altro occhio poteva riposarsi. «Mi sarebbe piaciuto andare a vedere Timbuktu», disse Jane, «perché ha un così bel suono». Vi fu una lunga pausa. «Non credi che sia una buona idea, Michael?» Ma Michael non le rispose. Aveva chiuso l'altro occhio proprio soltanto per un momento, ma poi si era proprio addormentato. Jane si sedette sul letto e rimase ad osservare i bastoni. Li osservò finché la testa le cadde da una parte sul guanciale. «Timbuktu», mormorò tutta assonnata, tenendo però fissi gli occhi sulle figurine nell'angolo. Dopodiché non disse più nulla, perché era troppo stanca e aveva tanto sonno. Al pianterreno il grande pendolo batté le 10, ma Jane non lo udì, come non udì Mary Poppins entrare in camera e svestirsi sotto la grande camicia da notte di cotone. Non udì la signora Banks che chiudeva le porte di casa prima di andare a letto. Jane faceva un sogno bellissimo. Vi erano tanti cavalli e Michael la chiamava «Jane! Jane!» con voce disperata. Balzò su e tirò indietro i capelli che aveva sugli occhi. Al di là della forma addormentata di Mary Poppins, ella poteva vedere Michael seduto sul letto e con un dito sulle labbra. «Ho sentito uno strano rumore!» egli labbreggiò con un soffio di voce. Jane si mise in ascolto. Certo, qualcosa udiva anche lei. Trattenne il respiro mentre le giungeva distinto da lontano un fischio acuto. «Fi, fi!» Il fischio si avvicinava sempre più e poi, improvvisamente, nella notte profonda, essi udirono una voce acuta che chiamava: «Vieni su, zucchero, vieni Pieleggero, vieni Candito, vieni Menta, non fatevi aspettare, altrimenti non arriverete più in tempo, questa è la legge». In quello stesso momento vi fu una specie di tramestio nell'angolo accanto al letto di Mary Poppins. Uno strepito, un cozzo, uno sbattimento, un tonfo. I quattro bastoni da passeggio, uno dopo l'altro, s'alzarono e saltarono giù dalla finestra. In un baleno i ragazzi furono fuori dal letto e si sporsero sul davanzale. Regnava l'oscurità più profonda. Era una notte buia, senza una stella, ma sugli alberi di ciliegio qualcosa brillava di una luce stranissima e ultraterrena. Era la signorina Calicò. Brillava come un riccio d'argento, cavalcando attraverso il cielo su bastoncini alla menta. La sua frusta schioccava nell'aria e il suo fischio feriva la notte tranquilla e buia. «Su, venite! Non siete altro che delle lentissime diligenze!» ella gridava mentre i quattro bastoncini la raggiungevano nitrendosi selvaggiamente. «Su, ballerino, ciuco, vieni che allora!» ella chiamava. Da un'altra parte arrivò trottando per le scale della cucina un altro bastone da passeggio. «Questo deve essere quello di Robertson. Ehi!» disse Jane. «Dove sei, Trixie? Vieni su, figliola mia!» La signorina Calicò fece schioccare di nuovo la sua frusta. Dalla finestra della più bella camera da letto della signorina Lark balzò fuori un'altra canna che corse a raggiungere tutte le altre. «Venite, Sprite! Vieni, Lollipop, Dapple e Trotto!» Da ogni parte i bastoncini giungevano correndo. «Serra una gamba, Blossom! Guarda bene qui, Honey! Tutti quelli che girovagano debbono tornare a casa! Questa è la legge!» La vecchia fischiettò ancora, fece schioccare la frusta e rise mentre essi correvano verso di lei. Tutto il cielo era popolato di bastoni in corsa e invaso da fragori di tuono per il trepestio degli zoccoli, a cui si fondeva lo strepito dei nitriti. Sulle prime, i bastoni apparivano come ombre senza più traccia di colore, ma quando il bagliore di un raggio di luna giunse dal parco, Essi apparvero in tutto il loro splendore. Nel galoppare mandavano bagliori meravigliosi e neppure più distinte si scorgevano le zampe rosate nel loro celere moto, nella chiara luce lunare, sempre più viva. Su, venite, puledrini miei, su, venite, ronzini diletti, tutti siete fatti con lo zucchero più fine. La voce della signorina Calicò si udiva dolce e sottile mentre radunava i suoi cavallucci per il ritorno. Muti, essi trottavano davanti a lei, sbuffando e scuotendo la testa di menta glaciale. La frusta continuava a schioccare con vigore. La luna apparve piena, tonda e chiarissima sui ciliegi del parco. Jane, nel vederla, rimase senza respiro e afferrò la mano del fratello. «Oh, Michael, guarda! È azzurra!» gridò. Infatti, la luna era azzurra. L'enorme luna azzurra sbucava lentamente a passo di parata dall'opposto emisfero. Il parco e il viale ne erano ormai inazzurrati. Quando la luna fu al sommo, parve una grande lampada che vegliava sul mondo addormentato. La signorina Calicò e il suo seguito di cavalli correvano all'impazzata in quella luce come un gregge di pipistrelli, ma fu questione di pochi attimi. Presto la cavalcata sparì come assorbita da quella luce. E gli schiocchi della frusta diventarono sempre più fievoli. Tutti son fatti con lo zucchero più fine, si udì echeggiare ancora una volta lontano. Ansiosi e sconfortati, i bambini si sporsero quanto più poterono al davanzale e per qualche momento rimasero in un silenzio sgomento e penoso. Alla fine Michael ruppe quel silenzio. Non avevamo il diritto di tenerli. Dopotutto, disse serio e rincresciuto. Ma lei non ci aveva mai detto questo, disse Jane, mentre Michael guardava disperatamente il cielo vuoto. Si allontanarono assieme dalla finestra e la luce azzurra della luna traboccò nella camera e inondò il pavimento, che parve un magico e tranquillo specchio d'acqua. Dai letti dei bambini la luce raggiunse un letto nell'angolo. Meravigliosamente colorata, brillò su Mary Poppins, ma costei non si svegliò, però aveva un riso pieno e felice, come se, anche immersa nel sonno più profondo, ella fosse pienamente soddisfatta di se stessa. I bambini rimasero in piedi a guardarla dormire, trattenendo il respiro, quasi intimiditi da quello strano sorriso. Poi si guardarono in silenzio e scambiarono un cenno d'intesa. «Ella sa», mormorò Michael. E Jane rispose in un soffio, «Eh sì». Sorrisero per un momento alla figura addormentata e infine se ne tornarono in punta di piedi a letto. La luce azzurra della luna colorava i guanciali su cui chiusero gli occhi nel sonno, nella canzone soave di quel chiarore. La luna brillava sul naso di Mary Poppins, che giaceva addormentata sul vecchio letto da campo. E adesso, come se le lune azzurre non contassero proprio nulla per lei, voltava il viso dall'altra parte, tirò su il lenzuolo e si sprofondò tutta sotto le coltri. Il silenzio era rotto soltanto dal russare di Mary Poppins.